Ah, stare male United. Bell'amore. Sì, Simo X. Yeah. Bra, bra. Dai, fanne un'altra. Sono la X che ti chiude come le finestre del PC. Simo X, se non mi conosci chiamami così. Siamo qui, io e mio frate, con Moreno bastonate. Molto pieno e ben estate, cado un rapper per le strade. Voi parlate troppe volte, spingo forte nella cassa. In cassaforte, rima in massa, è pazza la mia sorte. Fino alla morte io sono qua. Spingo rap, stile in quantità industriale come la coca di Escobar. Esco al bar, fiumi di birra e vino in boccia. Giù alla goccia, sei una roccia, rolla ti sto blunt. Super skunk, barbolei, sono in down su MySpace. Sarà forse perché ho fumato tutta l'erba di Grace. Faccio hey come Fonzi, dispiaccio a tutti voi stronzi. Queste rime scottano, zio va a finire che t'abbronzi. Duri pochi secondi, questa scena come a letto. Perché per fare l'hip hop non basta mettere un berretto. Vieni a vedere da vicino quanto è bella Genova. Sconti di regola, quel suono buono te lo dà lo Geno fra. Quando sono nelle altre città, perché vedo che non sanno che noi siamo una realtà. Vieni a vedere da vicino quanto è bella Genova. Sconti di regola, quel suono buono te lo dà lo Geno fra. Quando sono nelle altre città, perché vedo che non sanno che noi siamo una realtà. Basso in cassa come a cartolasso in tasca. È la mia rima che ti scassa, ti tartassa e ti sovrasta. Consumiamo più di un rasta, erba, fumo, alcol e basta. Svarioniamo sulla base come chi cala una pasta. Hasta la vista, finto artista di una lunga lista. Che è sprovvista di un MC che di pop se ne capisca. Fuori da sta mischia mad boys con gli ultimi aeli. Qui con noi Moreno, tecniche perfette, quasi non ci credi. Spesso eccedi come Zidane con Materazzi. Adesso qui insieme a te c'è Alemann e sono cazzi. Cazzi mazzi, io sto con le tipe, tu stai coi pornati. Quando rappi mi imbarazzi, fai come lo che starnazzi. Se non mi spiazzi, subito entro in azione. Non c'è illusione né finzione in ogni canzone. Il mio rap da serie A, il tuo manco da promozione. Cado rapper nella scena, tu sei il prossimo buffone. Vieni a vedere da vicino quanto è bella Genova. Sconti di regola, quel suono buono te lo dà lo Geno fra. Quando sono nelle altre città, perché vedo che non sanno che noi siamo una realtà. Vieni a vedere da vicino quanto è bella Genova. Sconti di regola, quel suono buono te lo dà lo Geno fra. Quando sono nelle altre città, perché vedo che non sanno che noi siamo una realtà. Ritorno a casa quando il mio quartiere dorme. Alla finestra guardo ombre cambiar forme, fumando la buonanotte. Cerchi casa mia e dopo le mignote attraversando il ponte. Infatti i problemi stanno sempre a monte. Lì puoi usare delle sonde, controllare le mie impronte. Non ho colpe su sti pezzi se vi squaglio come bombe. C'è Moreno e Mad Boys, se ti fumi con me un joint. Il cervello non risponde e sei di pietra come un gargoyle. Toy come story, con la tua storia da toy. Quindi cazzo vuoi dei fiori, quelli poi. Se ci muori, se ci provo chi ci trovi. L'occasione la si sfrutta. Per me siete dei frustrati come foste butta fuori. Gestiti da coglioni che non credono nei giovani. Alle serate fanno suonare sti DJ dei poveri. Dimmi che non ci vai, dai che la prossima scioperi. Tra sfigati e colpi anacquati io sparisco come copper. Vieni a vedere da vicino quanto è bella Genova. Sconti di regola, quel suono buono te lo dà lo Geno fra. Quando sono nelle altre città, perché vedo che non sanno che noi siamo una realtà. Vieni a vedere da vicino quanto è bella Genova. Sconti di regola, quel suono buono te lo dà lo Geno fra. Quando sono nelle altre città, perché vedo che non sanno che noi siamo una realtà.